Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Benvenuti, buon sabato. Come sempre siamo qui per pensare, parlare, discutere di relazione genitori e figli, e parlo al plurale perché, come sempre e per fortuna, qui in studio con me c'è il papà della nostra trasmissione, Alberto Pellai. Alberto, ciao. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, mi verrebbe quasi da chiederti cosa fai stasera, ma non per proporti un'uscita, non abbiamo, no. Non abbiamo tempo. Anche perché io avrei questa carovana di bambini da portarmi dietro. Perché il sabato sera da sempre è delizia per i nostri figli adolescenti e croce invece per molti genitori. È vero, tu non ci sei ancora, ma già te lo immagini. No, ma le sento le storie delle mamme e dei papà. Sai, il sogno delle mamme e dei papà di oggi è mettere una webcam sul maglioncino del figlio, farlo uscire e loro attaccarsi al computer e guardare il guinzaglio figlio che sta andando elettronico. Allora, a proposito di sabato sera, abbiamo scelto di lavorare oggi su un tema che ci è stato suggerito da una mail che vogliamo farvi ascoltare e poi commentare insieme. Andiamo. Ho una figlia di 15 anni che con tutti i suoi amici ha organizzato una festa. Tutti si sono accordati per essere presenti, ma una ragazza della compagnia ha approfittato di questo evento per dire a sua madre che avrebbe partecipato alla festa in questione, mentre invece si è accordata con un suo amico, che alla madre non piace, con cui farà un'altra uscita. Anche se non sono direttamente toccato dalla faccenda, c'è un piccolo problema. Noi genitori, infatti, ci siamo organizzati per i trasporti dei ragazzi alla e dalla festa. La mamma di questa ragazza pensa che noi la prenderemo a casa e sempre a casa la riporteremo alla fine di tutto. Invece questo non accadrà. Ora mi domando, se dovesse accadere qualcosa alla ragazza che va da un'altra parte, come ci sentiremo? Noi genitori che con il nostro silenzio abbiamo coperto la sua trasgressione. E secondo voi, dobbiamo riferire o no alla mamma della ragazza di ciò che lei combinerà quella sera? Così facendo però mia figlia passerà per la spiona che smaschera il segreto della sua compagna. Insomma, mi sento indeciso su cosa fare, considerato che, tra l'altro, io non conosco nemmeno bene i genitori della ragazza in questione. Grazie per l'aiuto. Voi come potete aiutare questo papà con un grande dubbio, no? Ha paura di tacere e d'altra parte è legittimo, teme che sua figlia passi da spiona. 800-24-0024 se volete darci una mano a trovare una soluzione. I messaggi al 349-238-6666. Ma Alberto, è tempo di presentare il nostro ospite. In linea con noi abbiamo il professor Domenico Barillà, psicoterapeuta adleriano. Buongiorno. Buongiorno. Autore di molti libri, ne citiamo alcuni: Inadeguati, Non si nasce e Tracce per pensare la vita e per educare, Cartusia Edizioni. Professore, lei cosa farebbe? Mi fa sospirare, ma io non sono un grande tifoso del silenzio, sinceramente. Cioè, quando il silenzio può coprire un atto non condivisibile, io non credo che bisogna tacere. Per cui, francamente, se mia figlia mi tira dentro in una responsabilità del genere, io le preciso che comunque non starò zitto. Ovviamente poi bisogna modulare l'intervento di caso in caso, però lei capisce che tacendo ci rendiamo responsabili anche delle conseguenze. Io mi domando sempre, a parti rovesciate, cosa vorremmo che gli altri facessero con noi? Tutti probabilmente pretenderemmo di essere avvisati. Certo. Ovviamente si può fare un intervento molto mediato, parlare discretamente con questi genitori e cercare di metterli sull'avviso, ecco, non è necessario inscenare un'azione clamorosa, però direi che la solidarietà fra genitori può funzionare anche attraverso il buonsenso, non è necessario dire ai genitori, beh, sta succedendo questo, insomma, ribaltiamo il tavolo, no? Si può perlomeno però creare questo precedente in modo che i genitori per le prossime puntate stiano più attenti. Laura da Treviso ci scrive già subito al 349-238-6666, io lo direi ai genitori, noi lo chiediamo agli altri amici di Questa Casa Non È Un Albergo, magari vi è capitato di dover coprire qualche bugia di amici di vostro figlio, magari quando voi eravate in adolescenza vi siete trovati da figli in questa situazione, raccontateci com'è andata, Alberto. Sì, quando abbiamo ricevuto la mail, effettivamente parlandone insieme io e Nicoletta abbiamo trovato questa situazione molto interessante, secondo me, perché pone anche un tema per noi genitori intorno al sabato sera fondamentale: di chi vogliamo essere complici nel decidere, nell'accompagnare, nel sostenere i progetti di libertà dei nostri figli. Da una parte sentiamo di voler essere complici dei nostri figli, ci piace un po' stare al loro livello e lasciarli andare, progettare con loro quello che fanno. Dall'altra parte però abbiamo perso un po' la complicità col mondo degli altri adulti e conseguentemente noi vorremmo farli tornare a casa magari entro l'una o le due di notte, ci sentiamo dire dai figli, tutti però tornano alle 4 di notte e a quel punto ci piacerebbe chiamare i genitori degli altri amici dei nostri figli e dire ma rimettiamoci d'accordo, cioè diamo noi le regole invece che subirle. Questo però sembra essere un passaggio oggigiorno impossibile, per cui a me interesserebbe molto ascoltare anche storie di genitori che hanno costruito un'alleanza tra adulti per sostenere la libertà dei figli, ma allo stesso tempo per avere voce in capitolo quando i figli progettano le loro uscite del sabato sera. Se a voi è successo, chiamateci, raccontate. E l'ultima cosa è: davvero vi sentireste così invasi nel vostro territorio familiare se un'altra mamma o un altro papà vi raccontassero una cosa brutta fatta da vostro figlio, una trasgressione particolarmente grave? Oppure considerereste questo un intervento che vi fa bene? Allora, Anna ci scrive: parli con la ragazza e le spieghi che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Mentre Guido da Verona ci scrive: lasciamo che i ragazzi facciano i ragazzi, noi genitori facciamo rete tra di noi. Tina, proverei a parlare con la ragazza. Maldo ci scrive: c'è il rischio che la prossima occasione la ragazza che questa volta ha parlato non racconti più delle tresche degli amici, e quindi siamo di nuovo ritorniamo nella situazione, quindi il silenzio, i ragazzi che non si fidano più dei genitori e quindi non parlano più. Ci manda un messaggio Carlo, abbastanza lungo, e ci scrive: quando mi sono trovato nella condizione del papà descritto dalla lettera, io ho parlato con i genitori, il risultato, i genitori non ci parlano più e mio figlio è stato additato da spione. Ormai ho deciso che mi faccio i fatti miei. Andiamo a Claudia che ci chiama da Ravenna, buongiorno. Io ho una bimba di 12 anni, sì. Quindi per il momento questo problema non ce l'ho, però pensando che in futuro comunque avrò questo problema in ogni modo, risolverei questa cosa, quantomeno il mio consiglio a questo, ho un ritorno che non riesco veramente. Sì, vuole che la richiamiamo, Claudia? No, proviamo sì. A parlare. Dai. Io proporrei a questo genitore di parlare con sua figlia, quindi spiegargli che comunque è per il bene dell'amica, che io come genitore inventerei un problema, quindi o all'andata o al ritorno farei intervenire i genitori di questa ragazza per andare a prendere i ragazzi o accompagnare. Certo, quindi mi sembra una buona strategia, Alberto. Insomma, dire bisogna che anche la mamma, facciamo conto, di Giovanna si renda disponibile per andarla a riprendere. Questo è dire una mezza verità? Ma in realtà qua noi chiediamo una complicità ai figli per smascherare. Io direi i figli gestiscano la loro complicità ed eventualmente è molto bene che un genitore dica a un figlio: devi parlarci con la tua amica, perché noi adulti non possiamo essere complici. E poi c'è un secondo livello, cioè noi genitori, qual è l'aspettativa che abbiamo sulle reazioni degli altri e sulla collaborazione degli altri negli interventi che tutelano la salute dei nostri figli? Anche se poi vedo molti pareri davvero molto discordanti. Emma, per esempio, ci dice: penso che sia una cosa che le ragazze dovrebbero sbrigarsi da sole. Amicizia e sincerità sono valori da coltivare come un giardino. Quanto l'amicizia tra ragazzi deve andare a scapito dell'eventuale sicurezza? Questo è un tema che vi rimandiamo indietro. E che, su cui coinvolgiamo anche il nostro esperto, professor Barillà. Ma io non terrei la giacca a uno mentre fa una rapina, sinceramente. L'amicizia implica anche alcune scelte di impopolarità. D'altro canto, l'amicizia detta così è un valore astratto, no? L'amicizia dipende anche dal grado di bene che siamo in grado di fare agli altri. Per cui non mi sentirei di esprimere un giudizio netto sulla questione, però direi che ci sono anche delle priorità. E la prima è l'interesse della persona che sta commettendo la trasgressione. Poi se salta l'amicizia perché abbiamo fatto un gesto benefico, va bene, salti l'amicizia. Evidentemente era incardinata sull'acqua fresca, insomma. Rossella ci chiama da Latina. Buongiorno Rossella e benvenuta. Buongiorno. Allora, io volevo intervenire in questo senso. Ho dei ragazzi adolescenti, sono mamma, quindi ecco, l'equilibrio tra appunto il rischio che corre questo papà, se ho capito bene, vorrebbe avvisare i genitori della ragazza di questa. Ecco, l'equilibrio è molto delicato, cioè i figli tengono molto al parere dei loro amici, cioè non vogliono che il genitore si impicci in modo da poter alterare un po' appunto i rapporti d'amicizia. Però in questo caso io mi sentirei di chiamare la ragazza, di suggerire a mia figlia che mettesse la ragazza di fronte alle proprie responsabilità prima di avvisare i genitori, perché qui non stiamo scherzando, qui stiamo parlando, cioè i genitori sono coinvolti direttamente perché si sono accordati per andare a prendere e a riportare a queste discoteche del sabato sera, dove i pericoli, parliamoci chiaro, sono elevatissimi, il rischio proprio della sicurezza, non solo della salute del ragazzo, ma della sicurezza, e intendo appunto, mi riferisco agli incidenti e quant'altro. Sì. Quindi io direi che la figliola di questo signore deve chiamare la sua amica e dire: noi non ti possiamo coprire perché sono coinvolti i nostri genitori o alcuni genitori del gruppo, e quindi, bella mia, non ci stiamo, insomma, a questa cosa. Ecco, questo è quello che mi sentirei di dire, anche se si rischia appunto di alterare un po' il rapporto con i propri figli, che io lo vedo con i miei figli, mi dicono tutto, abbiamo una grande comunicazione tra di noi, però se parlo dei loro amici, se metto un po' se critico, mette becco, ecco brava, si tira giù la Claire. Allora voglio leggermi il messaggio di Cinzia, che ha trovato un escamotage che vuole suggerirci. Sapevo tramite mio figlio che i suoi amici facevano danneggiamenti a macchine. Se parlavo, mettevo nelle grane mio figlio. Così mi sono accordata con un maestro comune, a lui e a un suo amico, che gli ha detto che i vigili le avevano riferito quello che lui ed altri amici facevano. Siamo in un paese e, spaventati, questi ragazzi si sono rimessi in riga e io sono soddisfatta. Ho salvato capra e cavoli. Alberto. Ma direi che l'intervento di Cinzia ci dice che ci vuole comunque un adulto autorevole e informato, che poi si prende la responsabilità di fare passaggi attivi, cioè di comunicare la percezione del rischio e il pericolo in cui i ragazzi si stanno mettendo. Secondo me la situazione concreta di cui discutiamo oggi è questa, cioè i genitori non sentono che nella loro comunità qualcuno può giocare questo ruolo di autorevolezza. E rimando allora al dottor Barillà. Effettivamente per molti genitori la loro posizione di fronte a mettere dei limiti a un figlio o un amico del figlio è percepita come una posizione fragile. Credo che i genitori oggi schivino l'idea o il rischio dell'impopolarità, perché vogliamo tutti essere amiconi dei figli. Ora, un genitore ha un compito, non è un caso che noi ci chiamiamo genitori e loro hanno un nome di battesimo, giusto? Nel nome genitore c'è anche il nostro compito. Agire e fare l'educatore significa non sempre essere simpatici. Ecco, il problema è che abbiamo saltato a pie pari questo compito istituzionale, siamo diventati appunto gli amiconi dei figli, e quando dobbiamo prendere una posizione che implica un po' di impopolarità e subire magari per qualche giorno i loro musi, diventiamo restii. Ma il nostro compito non è essere simpatici, questo è giusto che lo sappiamo quando mettiamo al mondo dei figli. Alberto, certo che bisogna, come diciamo sempre, se me lo dicevi prima, bisogna iniziare prima. Non si diventa improvvisamente genitori di adolescenti, restiamo genitori dei nostri figli. E a volte, e purtroppo io, non so, magari sono un po' troppo forte nel darvi questa riflessione, a volte siamo ancora più adolescenti dei nostri figli adolescenti e questo genera un livello di confusione davvero spaventoso. Aggiungerei però un altro passaggio. Se io ripenso a una situazione di questo tipo e la rapporto a 20 o 30 anni fa, secondo me questa situazione non sarebbe mai stata un problema per gli adulti, cioè gli adulti intervenivano in modo forte. Se penso a quello che succedeva a bambini e ragazzi in una comunità, in un quartiere, gli adulti avevano un forte controllo e monitoraggio educativo. Oggi secondo me la tendenza, e questo mette molto in difficoltà le mamme e papà, è che ciascuno si chiude nel privato della propria piccola famiglia e della propria piccola casa, cioè cerca di essere la mamma e il papà di suo figlio, cerca di proteggere, di sostenere per quello che può il proprio figlio e ci interessiamo troppo poco dei figli degli altri. Provate a pensare quante volte gli amici dei vostri figli entrano in casa vostra, quante volte avete modo di proporvi proprio in modalità simpatica ma anche educativa con gli amici e le amiche dei vostri figli, veramente non li vedete mai. E questo scollamento tra adulti e ragazzi, tra chi educa e chi in qualche modo deve essere educato, secondo me poi diventa tutto questo fenomeno di fatica a prendere decisioni, a prendere responsabilità che anche la mail ci ha raccontato. Andiamo a Roma, ci aspetta Giuseppe. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Senta, ho sentito la vostra trasmissione fino ad ora e direi che in un quadro generale di possibili responsabilità sia per i genitori che per tutto il problema che riguarda i figli, come genitore direi, prenderei mia figlia e gli direi: senti, è successo questo, parla alla tua amica tu e dille che noi non consentiremo più una cosa di questo genere, corriamo questo rischio questa volta, speriamo che vada bene, però il rapporto che tu hai con la tua amica lo curi tu e gli dici tu che non deve fare questo e che tu non lo permetterai più. Se poi la tua amica ti è veramente amica e capisce la situazione, le cose si sistemano e va bene, noi non c'entriamo niente, quindi non possiamo, secondo il mio punto di vista, coinvolgere i genitori in un problema di questo genere. Non conoscono l'altra famiglia, non so quale rapporto abbiano con l'amica, e potrebbe essere anche un deterrente per la figlia, perché così capisce che situazioni di questo genere se le devono sbrigare tra di loro, ma da grandi, insomma, si devono aiutare. Se poi, come ripeto, l'amica non vuole capire, allora l'amicizia si rompe. Non è un'amicizia strana, come ho sentito. Ci sono delle amicizie che non è necessario, anzi forse è meglio che non vadano avanti se sono usate a questo scopo. Questo in sintesi quello che volevo dire. Grazie Giuseppe. Professor Barilla, Giuseppe dice va bene questa volta e poi basta. Si scende un po' a patti, potrebbe essere una strada? Guardi, intanto Nicoletta, noi dobbiamo dosare la pressione secondo le situazioni specifiche, non c'è una ricetta, vede, tutte le telefonate ci dicono che ogni genitore, insomma, è un patrimonio di conoscenze che non possiamo squalificare facendo una graduatoria, ognuno insomma sa delle cose, evidentemente ognuno conosce anche la situazione specifica, quindi sa, ha delle informazioni che noi non abbiamo. Nel caso invece della mail da cui partiamo per la nostra riflessione, c'è un coinvolgimento esplicito della famiglia, della ragazza che dovrebbe fare la complice. Sostanzialmente la famiglia sarebbe depositaria della sicurezza dell'altra ragazza. Ora, è ovvio che questa ragazza chiede copertura per fare qualcosa che sente trasgressiva, no? Sì. Altrimenti non chiederebbe copertura. Nel momento in cui io so che un'amica di mia figlia mi sta usando per questo scopo, credo di avere il dovere morale di ribellarmi, sì, perché a parti rovesciate pretenderei la stessa cosa. Non possiamo poi dire a consuntivo è andata male, pazienza. Qui stiamo parlando di una creatura, di una persona che magari in quel momento non ha esattamente la percezione di quello che può accadere, di quello che sta facendo. Questo non significa che necessariamente succederanno delle cose negative. Il principio da affermare è che un adulto che viene a conoscenza di una trasgressione in cui viene chiamato a fare la garante non può tacere. Sì. La figlia stessa cosa penserebbe? Certo. Cioè è diseducativo anche verso la propria figlia. Anch'io sono assolutamente d'accordo con lei, cioè non farei il palo in questa situazione, parlerei. Un ascoltatore mi dice: taglierei la testa al toro e direi a mia figlia: se non parli con la tua amica non vai neanche tu alla festa. 800 24 00 24, dire o non dire, fare il palo o smascherare, che fare, come comportarsi quando i figli ci chiedono, ci mettono nella condizione di, ci costringono a coprire le bugie e le trasgressioni di loro amici. Questo è il tema di oggi, ma adesso è tempo di andare al nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Book Shop, oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola Sballo. Per ricevere a casa questo libro dovete essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it con titolo del libro, numero e i vostri recapiti. In collaborazione con ibs.it. Stefano, professor Barillà, ci scrive: forse se la figlia avesse davvero voluto che l'amica la facesse franca non avrebbe detto nulla ai propri genitori. C'è una richiesta di aiuto, secondo lei, in questa... Assolutamente, il genitore vede quante belle risorse che abbiamo fra i genitori, altro che padri assenti. Dice una cosa molto intelligente: se una ti fa trovare la carta, l'incarto delle caramelle che si mangia, sta ingrassando, ti vuole anche dire dammi una mano, giusto? Certo. Quindi se una ragazzina racconta ai genitori queste cose è perché ha percepito che la meccanica dell'azione non è perfettamente lecita. Raffaele da Como: ho 43 anni e se da ragazzo avessi fatto qualcosa di pericoloso o sbagliato e qualche conoscente mi avesse ripreso anche pesantemente, avrebbe avuto il pieno appoggio dei miei genitori. Oggi probabilmente verrebbe denunciato. Alberto, si ritorna anche su questo alla aspetto. Alla questione dell'alleanza educativa tra genitori, ben confermata dal messaggio di Carlo, che ci ha scritto: ho provato a dirlo ai genitori, ma loro non solo hanno detto di pensare ai cavoli miei, ma mi hanno fatto passare nel quartiere come un chiacchierone. Succede anche questo nella quotidianità. E allora cosa dobbiamo fare? Proviamo a chiederlo a un nostro ascoltatore in linea, c'è Gianluca che ci chiama dalla provincia di Milano. Gianluca? Sì, buongiorno, eccomi qua. È vero, magari si passa come chiacchieroni, però ci stiamo dimenticando di una cosa, che nell'ordinamento italiano è prevista la responsabilità oggettiva. Cioè se io come genitore, io non sono genitore, però sono istruttore d'arti marziali e teniamo molto all'educazione, all'onestà e alla correttezza. Se io come genitore mi prendo carico di una figlia, di un figlio, di qualcuno e mi impegno a portarli in un posto, ho la responsabilità di fare in modo che questa persona sia sicura fino a quel posto, e se mi prendo la responsabilità di portarlo indietro devo essere sicuro che torni indietro. Se gli succede qualche cosa perché è andato da un'altra parte o io ho permesso che andasse da un'altra parte, io divento complice. Non voglio dire che cosa potrebbe succedere, lo sappiamo tutti, di tutto potrebbe succedere, magari nulla, ma dovesse succedere io automaticamente divento complice, non posso accettare una cosa del genere. Poi oltretutto c'è l'esempio che do a mia figlia, a mio figlio, cioè tutto si può sistemare, basta mettersi d'accordo e nasconderlo, ma non esiste, assolutamente. Grazie Gianluca, andiamo a Stefano dalla provincia di Ferrara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, io concordo pienamente con quello che ha appena detto il ragazzo che ha parlato. Io mi sono sposato, per dire, da un esempio, a 32 anni, la domenica prima telefonavo a casa per dire resto fuori a cena, cioè... Quelle semplici cose che possono sembrare una banalità adesso, però è rispetto, educazione e senso di civiltà. Io quando ho avuto 15-16 anni, sono stati gli anni in cui è esplosa la droga in Italia, mi sono trovato con un mucchio di amici e si sono cominciati a devastare il cervello. Io ho parlato con i miei genitori, non ho nascosto niente, dicevo questo, stanno facendo questo, non li ho mai protetti, non mi ci sono mai buttati in mezzo, non ho mai provato niente. Ma non ho mai fatto niente neanche di nascosto verso i miei genitori. Quando lei diceva ai suoi genitori che gli amici facevano uso di sostanze, i suoi genitori si sono attivati o no? Si sono attivati, erano altri anni in cui c'era anche una grande ignoranza sulla cosa stessa, cioè che si sapeva e non si sapeva, si pensava e non si pensava. ma io vedevo con i miei occhi i miei amici che si stavano lentamente distruggendo. Parlavo con mia madre, parlavo con mio padre, loro mi dicevano: Stefano, stai attento, mi avevano già avvisato di questa cosa qui, anche se non c'era l'informazione che c'è in questi giorni qui, che c'è adesso, sappiamo benissimo cosa andiamo incontro, allora tanto provo una volta, invece era finita. Certo. Però io non ho mai nascosto niente ai miei, a parte diciamo... magari sono stato lì, non sono stato là, ma no, sì. Anche quando si diceva di nascosto, oh dai, andiamo a fare un giro là in macchina, torniamo. No, io dicevo: ragazzi, mi portate a casa. Passavo per pistolone, mi scusi il termine. però sono sempre stato molto più orgoglioso della mia pistolaggine, che alla fine tradire i miei genitori. Quindi sono pistolone e ne sono fiero. Grazie, sì, Stefano. Niente, arrivederci. Alberto, quando un ascoltatore diceva: io quando da genitore sono responsabile, dico accompagno e riporto sua figlia a casa, devo essere responsabile. Quindi, però si sa, no? Tra i ragazzi dicono: non ti preoccupare, mi viene, vengo poi a casa con il papà di Tizio, vengo a casa, mi accompagna la mamma di Caio. E non tutti i genitori tirano sul telefono e dicono: buongiorno, io sono la mamma di Giovannino, è vero che suo figlio verrà accompagnato? Ecco, allora quello che noi suggeriamo è questo: non sempre i nostri ragazzi ci danno la possibilità o ci permettono, diciamo anche la verità, no? Perché poi si vergognano se noi diciamo: senti, però io con questo genitore voglio parlare anche solo per ringraziarlo che mi evita un'alzataccia alle 2 del mattino per venirvi a prendere in discoteca. E allora lì il panico: sei l'unica che lo fai, ma come? Ma allora gli altri quante telefonate dovrebbe ricevere? Alberto, ecco, perché io... ti capiterà anche certo. questo. E io credo che tu sollevi una questione fondamentale: è sacrosanto tra noi genitori, soprattutto quando i nostri ragazzini sono hanno 13, 14, 15 anni, non sono adulti. Ecco, io vorrei dire padroni. Anche 15, 16, 16 professor 17. Barilla, sono esagerata? No, assolutamente. Noi dobbiamo sempre ricordarci che stiamo parlando di vite umane, non stiamo parlando di minerali, quindi la posta in gioco è alta e ovviamente bisogna anche assumersi responsabilità comparabili. Inoltre, guardi, quando arriva un ragazzino da me, fra una chiacchierata e l'altra gli chiedo sempre: ma tu preferisci essere amato dai tuoi genitori o essere libero? E tutti mi rispondono: amato. Inoltre non dimentichiamo che i ragazzini non hanno un criterio diretto per valutare quanto contano, hanno degli strumenti indiretti. Per esempio, qual è lo strumento indiretto per eccellenza? Osservare quanto i nostri genitori sono attenti a noi. La mancanza di controllo è un giudizio di valore negativo, sì. Se non mi controllano è perché non gliene importa niente di me. Poi consideriamo un'ultima cosa: l'educazione è un investimento sul lungo periodo, non è mica detto che un ragazzino debba capire subito, Non so, io ho 57 anni, qualche volta capisco delle cose che mi sono state spiegate a 16, magari sarò un po' tardo, no? Però, certo, però... abbiamo bisogno di tempo, l'abbiamo bisogno noi come genitori, perché non sempre, no? La indoviniamo subito, e hanno bisogno anche i nostri figli di tempo, certo, per metabolizzare quello che noi gli insegniamo. E credo un altro messaggio fondamentale è che quando i figli vogliono trasgredire realmente, si organizzano e fanno tutto davvero di nascosto. Saremo noi genitori, poi magari che ci muoviamo come degli Sherlock Holmes, ma se un figlio mette il genitore a conoscenza dell'eventuale trasgressione che si sta verificando nel suo gruppo, quella comunicazione è realmente una forte richiesta di aiuto. E dire: mamma, papà, voi genitori, voi adulti, mettetevi al vostro posto, dateci in mano, prendete una bussola e ricoordinate tutta ridateci una direzione, perché sono spaventati, sentono il pericolo. Non c'è nulla di peggio che scendere con l'ascensore al loro livello e diventare complici di trasgressioni che stanno molto confondendo i nostri figli. Insomma, questo è come la pensiamo noi. Professor Barilla, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. Buon sabato sera, allora, ai genitori di adolescenti all'ascolto, andrà bene. Continuiamo a fare i genitori senza paura di diventare qualche volta impopolari o antipatici. Alberto, il messaggio di oggi? Il messaggio di oggi è: i figli facciano i figli, i genitori facciano i genitori. Al prossimo sabato, buona giornata!